Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sciopero a pochi effetti a Milano, mentre Roma è nel caos con metropolitane ferme. Oggi manifestazione a San Giovanni, situazione difficile a Napoli. Renzi contro la decisione dell'UNESCO sul muro del pianto, voto allucinante. L'Italia ha sbagliato ad astenersi, il premier contro Bruxelles sulla Russia. Iraq, assalto ISIS a Kirkuk, controllata da militari curdi, jihadisti asserragliati in una scuola in Siria ad Aleppo. Per mancanza di sicurezza, niente evacuazione dei feriti. Gli ispettori del Ministero all'ospedale di Catania per il caso della donna morta dopo l'aborto. Sono 12 al momento i medici indagati, un atto dovuto, dice il PM. Battaglia nei supermercati in Friuli per restare aperti il 1° novembre festivo. La legge regionale prevede multe Carrefour ai sindaci. Vi chiederemo i risarcimenti. D'oggi Castel Gandolfo smette ufficialmente di essere la residenza estiva del Papa. Le stanze del Pontefice visitabili già in questo fine settimana. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it se ci volete scrivere. In apertura dunque le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulle decisioni UNESCO. È una vicenda allucinante. Ho chiesto al ministro degli esteri di vederci subito al mio ritorno a Roma. È incomprensibile, inaccettabile e sbagliato. Così da Bruxelles Matteo Renzi commenta a RTL la risoluzione dell'UNESCO sui luoghi santi del Medio Oriente, voluta dai paesi arabi e contestatissima da Israele. Sostenere che Gerusalemme e l'ebraismo non hanno una relazione e sostenere che il sole fa buio, continua il premier, ribadendo la posizione dell'Italia che si è astenuta dalla votazione. La risoluzione sostenuta dall'autorità palestinese e presentata da Algeria, Egitto, Libano, Marocco, Oman, Qatar e Sudan è stata votata la scorsa settimana a Parigi e adottata definitivamente martedì. Nel testo, approvato da 24 paesi su 58, col fine di tutelare il patrimonio culturale della Palestina, i luoghi santi della città vecchia sono indicati solo con il nome arabo, cosa che ha fatto infuriare gli israeliani. Per Israele non viene infatti riconosciuto il profondo legame con il Monte del Tempio, nome con cui gli ebrei chiamano la spianata delle moschee, luogo sacro musulmano, e con il Muro del Pianto, il luogo più sacro agli ebrei di tutto il mondo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sono arrivate proprio in questi minuti le dichiarazioni del portavoce del Ministero degli Esteri israeliano, Emmanuel Nashon, che dice: ringraziamo e ci felicitiamo con il governo italiano per questa importante dichiarazione. Queste le dichiarazioni che arrivano da Israele. Sempre sul fronte internazionale c'è il tema in primo piano dei rapporti con la Russia, che emerge con forza dal Consiglio europeo. Ferma condanna degli attacchi del regime siriano e dei suoi alleati, in particolare la Russia, contro le popolazioni civili di Aleppo. Ma nessun riferimento alle sanzioni a Mosca invocate da Gran Bretagna, Francia e Germania. Così il documento finale della prima sessione di lavori del Consiglio europeo, conclusasi a tardanotte a Bruxelles. A bloccare le sanzioni, secondo fonti europee, il veto italiano, con il premier Matteo Renzi che ha fatto asse con l'alto rappresentante europeo Federica Mogherini, costruendo una soluzione poi accettata da tutti. Bisogna arrivare a fare tutte le pressioni possibili perché si faccia un accordo in Siria. Difficile immaginare che questo abbia a che vedere con ulteriori sanzioni alla Russia. Il segnale politico resta, così come quello sull'immigrazione, che su proposta italiana riconosce lo sforzo dei governi in prima linea. Ancora Renzi. A livello di parole si è fatto un passo in avanti. Noi continuiamo a dire che più che le parole servono i fatti. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Infine la manovra, anche se non è entrata direttamente in queste discussioni con Bruxelles, è comunque un punto di frizione. Vincenzo Miglietta, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così un dibattito quello sulla manovra che inevitabilmente guarda da una parte ai rapporti tra Roma e Bruxelles e dall'altra al cammino parlamentare del provvedimento. Sul primo fronte, sulle più che probabili osservazioni della Commissione europea, è lo stesso Presidente del Consiglio a ribadire: potranno scrivere, come si fa sempre, una lettera per chiedere maggiori spiegazioni, ma la legge di bilancio non si cambia. Se l'Unione europea avrà osservazioni da fare, ascolteremo, dice ancora Renzi, ma questa manovra ha il deficit più basso degli ultimi 10 anni. Quanto al nodo fisco, Renzi spiega: non c'è nessun condono, chi ha preso la multa la deve pagare, basta però con Equitalia come killer dei cittadini, deve essere un consulente. A Bruxelles nessuno scetticismo, aggiunge il ministro dell'economia Padoan. Gli interventi fiscali, intanto, a partire dalla voluntary disclosure, creano malumori nello stesso PD e in tutte le opposizioni. Renzi occupa radio e TV, ma la manovra non è in Parlamento, lamentano Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia. In realtà, tra ultime limature e caselle da riempire, mancano all'appello delle commissioni competenti sia il disegno di legge vero e proprio, sia l'atteso decreto fiscale. È tutto, linea allo studio. E ti ringrazio, grazie a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Certamente si parlerà anche di politica economica nella due giorni dei giovani industriali a Capri, che si apre oggi. La nostra inviata Anna Marino in diretta con noi. Anna, buongiorno. Buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sì, si apre tra poco, la due giorni, come dicevi, a Capri, del 31esimo convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, quest'anno intitolato con un gioco di parole: forti progetti, non poteri. Come anticipato dal presidente dei giovani industriali Marco Gai, la richiesta al paese è quella di lavorare insieme, no ai maquillage. In primo piano le riforme come quella del lavoro, ma bisogna cogliere, dice, opportunità anche di un piano industriale come Industria 4.0, e quindi spazio al lavoro fin da subito e all'istruzione, cominciare da stamattina con workshop su alternanza scuola-lavoro e lo startup contest per i giovani che si autoimpiegano. Tra gli ospiti oggi della due giorni, i ministri Giuliano Poletti, lavoro e welfare, Stefania Giannini, istruzione, quindi temi del lavoro e della ricerca, presenti il presidente dell'INPS Tito Boeri, leader sindacali Camusso, Furlan, Barbagallo, i manager Mauro Moretti di Leonardo e Giovanni Castellucci, di Atlantia. Ma anche l'economia e il referendum domani con Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico, e Maria Elena Boschi, rapporti con il Parlamento. Conclude i lavori sempre domani il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. È tutto per adesso. E grazie Anna Marino in diretta da Capri, lavori che naturalmente seguiremo nei nostri appuntamenti con l'informazione, ovviamente anche in Focus Economia. Giornata di scioperi dunque quella di oggi, di questo venerdì. La situazione più critica sembra a Roma. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così, sono molte le categorie interessate da questo sciopero generale che è stato proclamato dai sindacati di base, pubblico impiego, scuola, sanità e trasporti, ed è soprattutto in quest'ultimo settore che si registrano i disagi maggiori, lo dicevi, qui a Roma, dove sono state chiuse tra l'altro anche due delle tre linee della metropolitana. Io vi sto parlando dalla stazione Termini, dove in questo momento ci sono anche lunghe file di persone che sono in attesa di un taxi. Naturalmente le ripercussioni si fanno sentire anche sul traffico, perché molti stamattina hanno deciso di andare al lavoro in macchina. Per quanto riguarda, sempre restando nel trasporto pubblico locale, naturalmente le modalità di questo sciopero e le fasce di garanzia sono diverse da città a città. Nel frattempo, in attesa del No Renzi Day, che è in programma domani, sempre qui nella capitale, questa mattina i sindacati di base hanno organizzato anche cortei e iniziative in molte altre città italiane per protestare contro le riforme e le politiche economiche del governo Renzi. A Milano sono scesi in piazza anche gli studenti, qui a Roma noi invece abbiamo raccolto le voci di alcuni manifestanti che hanno partecipato ad un sit-in sotto il Ministero dell'Economia. Sentiamoli, poi la linea può tornare a te Simone. Il Jobs Act ha distrutto qualunque parvenza di democrazia nei luoghi di lavoro e bisogna dire basta, bisogna dirlo con convinzione per tutti quelli soprattutto che non possono più neanche protestare. Domani c'è la grande manifestazione contro questo governo, il No Renzi Day, perché abbiamo collegato lo sciopero anche alla contestazione della riforma costituzionale. Noi siamo dell'Istituto Superiore di Sanità e mediamente non siamo più giovani, perché da tempo abbiamo superato tutti 40 anni e siamo precari almeno da 15, non è più sostenibile. Questa cosa per la vita delle persone, ma anche per il bene nazionale, perché noi svolgiamo un ruolo per la sanità pubblica. Come avete sentito, protesta anche di carattere politico per il no al referendum. Dunque, proprio di referendum parliamo adesso. Non tralascia la sentenza del TAR Matteo Renzi mentre parla di referendum. Il Premier la vede come una vittoria del governo e del fronte del sì. I grandi professori del comitato del no hanno fatto ricorso anche al TAR del Lazio e hanno perso anche lì. Ora andiamo al merito. Renzi critica anche i sindacati. Lo sciopero di oggi non ha nulla a che fare con le politiche economiche del governo, ma i disagi sono soprattutto in nome del no al referendum. Intanto, per un sondaggio di XE, il no è avanti di un punto, 38% a 37%, con gli elettori PD orientati a confermare la riforma costituzionale, 71%, e quelli del Movimento 5 Stelle e Lega Nord decisamente contrari, 64% e 68%. Se si votasse oggi, l'affluenza sarebbe al 55%, salita di 4 punti in una settimana. Sulle presunte divisioni di Forza Italia interviene poi Maria Stella Gelmini, che querelerà chi parla di ambiguità azzurra o di tiepida convinzione per il no. Ieri la decisione del TAR del Lazio, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Movimento 5 Stelle e di Sinistra Italiana, per i quali il quesito era uno spot per il governo. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È una giornata molto intensa quella di oggi di borsa per il Monte dei Paschi, in questo momento segna un rialzo teorico del 12,4% in attesa dell'esame dei piani, anche quello realizzato da Corrado Passera, una giornata nella quale è passato di mano, riferisce l'agenzia Radio Cori Il Sole 24 Ore, il 4,4% del capitale, dunque una nuova accelerazione dopo una settimana nel segno del rialzo. Sui mercati naturalmente torneremo come sempre alle 13:30. Lo ricordiamo, lunedì prossimo in programma il board, il consiglio d'amministrazione, proprio per l'approvazione del piano industriale. Andiamo all'estero, iniziando da Aleppo, dove da Ginevra, dall'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, si riferisce che non è possibile procedere all'evacuazione dei feriti perché mancano le condizioni di sicurezza. Stando tra l'altro a quanto riferisce il ministro degli esteri russo Lavrov, i terroristi, ricorrendo a minacce ricatti all'uso della forza bruta, ostacolano l'uscita dei civili da Aleppo Est. Come vi ricorderete, vi abbiamo riferito ieri che il fronte ex al-Nusra appunto ha minacciato i civili di ucciderli nel caso lasciassero la città, in questo momento sotto attacco da parte delle forze siriane e delle forze russe. L'altro fronte di tensione e di lotta con il terrorismo è l'Iraq. È in corso un attacco degli jihadisti alla città di Kirkuk, controllata dai curdi e dai soldati iracheni. Ci sono almeno 6 vittime tra gli agenti nell'assalto ad un complesso di polizia, mentre un cecchino sta sparando dal tetto di un hotel. Uomini dell'ISIS sarebbero tra l'altro entrati, notizia di poco fa, all'interno di una moschea, ed altri sarebbero asserragliati in una scuola. Sembra una risposta all'offensiva su Mosul, nella quale una parte potrebbero averla le forze italiane. Di questo ci parla oggi Daniele Biacchessi. Ogni missione militare all'estero dovrebbe avere il voto decisivo del nostro Parlamento. È così, lo prevede la nostra Costituzione. In Iraq sembra che questa regola ad ingaggio si sia aggirata. L'Italia schiera circa 1.400 militari. Sono dislocati tra la diga di Mosul, 500 bersaglieri, il centro di addestramento delle forze curde, reparto elicotteri a Erbil, 500 persone, della polizia irachena a Baghdad, 120 carabinieri, e gli aeroporti kuwaitiani con 220 militari dell'aeronautica. Sempre in Iraq sono operativi oltre un centinaio di incursori delle forze speciali, assegnati anche al supporto delle forze curde irachene come consiglieri militari. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri incursori avrebbero il compito delicato di recuperare militari curdi o iracheni rimasti isolati oppure feriti. È una missione decisamente umanitaria che però cela un'azione di conflitto, perché le operazioni di recupero vengono effettuate con lancio di missili e pallottole, quindi guerra vera e propria. Sono questi guerrieri delle nostre forze speciali che in queste ore potrebbero essere stati coinvolti direttamente nell'offensiva. Certo, solo pochi giorni fa il ministro della difesa Pinotti aveva assicurato che le forze militari italiane in Iraq non prendono parte all'azione in atto contro lo Stato Islamico a Mosul. Ma le cose potrebbero essere cambiate nelle ultime settimane. Insomma, forse l'Italia è in guerra, ma non si può dire. E a proposito di Kirkuk, arrivano proprio in questi minuti notizie di prima mano dall'arcivescovo caldeo di Kirkuk, Monsignor Yusuf Thomas Mirkis, interpellato dall'ANSA. Gli jihadisti dell'ISIS hanno preso delle persone in ostaggio in una moschea nel quartiere chiamato Primo Settembre, approfittando appunto del venerdì di preghiera. Siamo all'Italia, la polizia ha arrestato padre Salvatore Anello, sacerdote noto a Palermo come guaritore ed esorcista. L'accusa è di violenza sessuale. Gli agenti di polizia giudiziaria lo hanno fermato nel convento dei Cappuccini. Il sacerdote, 59 anni, è cappellano all'ospedale civico. Il prete avrebbe toccato 2 donne e 3 minorenni che si erano rivolti a lui per essere aiutati. È stata assolta l'ex assessore ligure Paita e capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, che era a processo per l'alluvione. Il PM aveva chiesto la sua condanna a 2 anni e 8 mesi. Per il giudice per l'udienza preliminare, invece, Raffaella Paita non ha commesso alcun reato. Di qui l'assoluzione stamane nel corso del processo celebrato con rito abbreviato. Già assessore alla protezione civile, Raffaella Paita era stata coinvolta nell'inchiesta sulla mancata diramazione dell'allerta la vigilia dell'alluvione che il 9 ottobre di 2 anni fa devastò il centro di Genova con una vittima e danni ingentissimi. La Paita era accusata di disastro e omicidio colposo. Esponente del Partito Democratico, nel maggio successivo era stata candidata alla presidenza della Regione Liguria, venendo poi sconfitta dal leader della coalizione di centrodestra Giovanni Toti. Per la mancata allerta, il GUP ha invece rinviato a giudizio Gabriella Minervini, ex dirigente alla Protezione Civile regionale. A marzo il processo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. Prima di chiudere e di andare a sentire cosa succede sulle strade, parliamo di arte, se tale si può definire. Di certo è una mostra che attirerà parecchia gente, una mostra di sculture di Lego. La Venere di Milo, ma anche la Gioconda, il David di Michelangelo, il Pensatore di Rodin o l'Urlo di Munch sono alcuni dei celebri capolavori reinterpretati con i mattoncini Lego dall'artista americano Nathan Sawaya, che espone oltre 100 delle sue opere realizzate con più di 1 milione di pezzi alla Fabbrica del Vapore di Milano. Tutto questo nella mostra intitolata The Art of the Brick, che dopo aver girato tutto il mondo e aver debuttato a Roma lo scorso anno, arriva per la prima volta a Milano con numerosi pezzi inediti mai esposti prima in Italia e sarà aperta fino al 29 gennaio. Un lavoro, quello di Nathan Sawaya, ex avvocato di successo, che colpisce forse anche più l'adulto del bambino e che dimostra come un giocattolo può diventare un oggetto d'arte. Nathan Sawaya. I wanted to be the first to take this Lego brick into the art world because it is part of democratizing that art world by making it more relatable. Democratizzare, se vogliamo, il mondo dell'arte. E quindi questo ritengo sia il mezzo che permette di fare proprio questo, portare nel mondo dell'arte una sorta di democratizzazione e usare questo mezzo in una nuova maniera. Un successo planetario con numeri di visitatori davvero da record. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Come si diceva, adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi riprendiamo i fili della vicenda di Catania, quella che vi abbiamo raccontato anche ieri e che ancora campeggia sulle prime pagine dei quotidiani, la vicenda della donna che aspettava 2 bambini e che sarebbe morta durante l'aborto spontaneo di questi 2 bambini perché il medico è obiettore. Abbiamo sentito ieri la versione dell'ospedale, oggi sentiamo il legale della famiglia nel giorno nel quale gli ispettori arrivano appunto nel nosocomio. Tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dello sciopero che sta coinvolgendo soprattutto i mezzi pubblici, abbiamo parlato delle dichiarazioni di Renzi sulla decisione dell'UNESCO su Gerusalemme, abbiamo parlato di Iraq, di Siria, ci siamo occupati anche del Consiglio europeo e di sanzioni alla Russia. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo oggi da dove lo avevamo iniziato ieri, ossia da Catania e dall'ospedale Cannizzaro, dove la vicenda ormai la conoscete. Una donna, Valentina Milluzzo, 32 anni, è morta il 16 ottobre scorso alla 19esima settimana di gravidanza dopo aver perso con 2 aborti i 2 gemelli che aspettava. Ieri abbiamo sentito, a fronte della denuncia della famiglia, la quale ha detto insomma che questo è avvenuto perché il medico si è dichiarato obiettore e ha detto, per quanto riguarda l'aborto del primo feto, ha detto: finché respira io non intervengo. Abbiamo sentito la versione dell'ospedale nella figura del direttore generale Pellicanò. Oggi vogliamo tornare a sentire la famiglia perché oggi è la giornata nella quale gli ispettori mandati dal Ministero della Salute sono nell'ospedale Cannizzaro. Siamo dunque con Salvatore Catania, che è l'avvocato della famiglia. Buongiorno avvocato, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno a voi. Allora, possiamo avere da lei la versione che ha dato, suppongo, il padre a questo punto, insomma il marito, sì, il marito della signora? Sono 2 versioni concordi. Voglio precisare questo. Sentendo ieri la conferenza stampa dei vertici del Cannizzaro, parrebbe che la signora sia arrivata in emergenza alle 11 del sabato 15 e che lì sia stato poi perfettamente assistita, che non è per niente vero. È quello che sostiene la famiglia, cioè che ci sia il medico obiettore. Ora, questo del medico obiettore è un segmento, ed è un segmento importantissimo di questa vicenda. Ovviamente mediaticamente Mi scusi avvocato. Prego. Lei ha parlato di due versioni concordi, sono quindi quella del marito e di chi altro? Del padre, che erano lì, della madre, le versioni non è solo il marito e il padre, i familiari erano tutti lì, il marito, il padre, la madre, gli zii, il fratello, cioè in ospedale in quel momento si trova l'intero nucleo familiare allargato della povera Valentina. E sul punto le versioni raccolte, diciamo, da me, ma anche quelle già consegnate, non so cosa abbiano detto esattamente, ma suppongo, immagino, siano concordi sul punto. Io però voglio sottolineare questo: la signora Valentina non è arrivata lì alle 11, era ricoverata da 20 giorni, l'esposto della famiglia e che si accerti se in questi 20 giorni, ovviamente con particolar modo l'ultimo giorno, siano state rispettate tutte le leggi dell'arte sul piano diagnostico e terapeutico, cioè non è solo quel segmento che interessa la famiglia, è importantissimo. Perché si tratta di capire, visto che c'è stata una febbre, un episodio febbrile acuto la mattina del sabato, che non è stata diagnosticata, curato da nessuno, perché per 6 ore la signora, la povera morta, piena di vita, è entrata piena di vita e poi morta, non ha visto un medico, perché ce n'era solo uno in altro impegnato. Fino alle 7 nessuno gli ha diagnosticato niente, perché nessun accertamento è stato fatto. Quindi la verifica che la famiglia ha chiesto alla Procura della Repubblica di Catania è se ci sono colpe diagnostico-terapeutiche, non in relazione alle 3 ore su cui si realizza questa divaricazione di fatti fra vertici dell'ospedale e famiglia. La famiglia giura che il medico gli ha detto questa cosa ed è gravissimo, ovviamente. Sì. Ma potrebbe non essere l'unico profilo di colpa, perché forse parlo troppo, io mi chiedo capisco benissimo, però lei capisce appunto che lo snodo, allora la differenza è tra un caso pur dolorosissimo di malasanità e un caso che coinvolge, lo capisce benissimo, un tema mediaticamente il tema è molto più importante, perché è ancora più grave soprattutto pensare che in una struttura pubblica, questo io l'ho appreso dalle loro dichiarazioni, tutti i medici sono obiettori di coscienza, e questo già è un fatto grave, secondo me, in sé, a prescindere da quello che sia accaduto. Se poi certo quello che dice la famiglia dovesse corrispondere al vero, come io credo che sia, e che addirittura questa situazione anomala. Lei l'ha sentito? Mi scusi, lei l'ha sentito il direttore generale? Il direttore generale dice: lo escludo completamente perché l'obiezione di coscienza riguarda un fatto specifico. Allora, lo schema logico sotteso al ragionamento del direttore generale è questo: poiché esiste la norma che punisce il furto, nessuno ruba. È un discorso che non prova nulla. Mi scusi se parlo in legalese, ma di fatto è chiaro che è malamente invocata, ma il fatto che sia stata in ipotesi malamente invocata, se logicamente il discorso che fa il dottor Pellicano regge da un punto di vista, noi non parliamo di logica, dobbiamo parlare di una ricostruzione, di una verifica di quello che effettivamente è avvenuto. Perché con ragionamento del dottore Pellicano i tribunali penali sarebbero vuoti, perché tante cose non andrebbero fatte, che invece purtroppo, ahimè, in dispregio di norme, di principi minimali, di regole, parlo in generale. Lui avrebbe detto proprio così, secondo la famiglia, cioè finché respira. La famiglia ha detto: io finché il cuore batte non intervengo, perché io sono un obiettore di coscienza e non intervengo su un feto vitale. Evidentemente può anche essere, può essere che lui non abbia capito e colto la gravità della situazione della signora, perché allora se io devo tentare una spiegazione di un comportamento che altrimenti è assurdo, è gravissimo, perché potrebbe trascendere la responsabilità colposa, e che probabilmente, dico, anche se la signora urlava, se la signora aveva avuto la febbre, aveva dolori, in quei momenti urlava, chiedeva aiuto anche dal punto di vista di dolori disumani che provava, ma questa potrebbe essere l'unica spiegazione, non lo so, se dico, ma i familiari giurano sul crocifisso, l'ha detto ieri il padre, per questo mi permetto di ripeterlo, che il medico gli ha ripetuto tutte e due volte questa cosa. E che non, a loro non è stato mai detto che non si interveniva chirurgicamente perché c'era un rischio emorragico. Questa verità rappresentata dal primario a loro, e loro diciamo, viene consegnata dagli organi di stampa, perché nessuno quella notte gli disse: guardi che noi non stiamo potendo intervenire, capiamo che la situazione è grave, che sua figlia sta, ha questi dolori atroci, forse sta rischiando la morte come poi l'ha rischiata, perché poi quando sono intervenuti hanno visto che c'era la sepsi, perché se interveniamo la ammazziamo perché c'è il rischio emorragia, ed è una circostanza verosimilmente, no, che se mi viene riferita io non posso dimenticare. Certo. Non hanno potuto operare perché l'operazione era controindicata da un rischio emorragico, quindi sì. Questa è, sarà anche vero, ma è una escogitazione a posteriori, dico, perché la famiglia comunque ripete, interpellata sul punto, sì, che nessuno mai gli ha detto che il ritardo nel, diciamo, che l'isterectomia, come la chiama tecnicamente, sì, non è stata fatta per ragioni attinenti a un rischio emorragico. Sì. In nessun momento, nemmeno per sillaba, per accenni, per frammenti, è stata loro rappresentata questa evenienza. La ringrazio, grazie Salvatore Catania, avvocato della famiglia di Valentina Miluzzo, per essere stato con noi. Appunto, abbiamo dato ieri la versione dell'ospedale, oggi questa versione, vedremo che cosa dirà la procura, che quale sarà poi la versione giudiziaria di tutto questo e la versione anche degli ispettori del Ministero della Salute. Saluto Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, buongiorno, bentornato, buongiorno, ai nostri microfoni. Buongiorno Di Piazza. A lei, buongiorno. Allora, c'è una disfida, l'abbiamo raccontata ieri, che è in corso in Friuli, perché c'è una legge regionale che prevede la chiusura di negozi e supermercati nei giorni festivi, in una serie di giorni festivi, pena una multa a seconda della dimensione del negozio fra i 3 e i 36.000 euro. Ebbene, c'è la Confcommercio di Trieste che protesta, perché dice abbiamo un problema, perché qua c'è, insomma, è una città turistica, se mi fai chiudere il primo novembre io ci perdo un sacco di soldi. Dall'altra parte abbiamo una grande distribuzione come Carrefour, che ha inviato alle amministrazioni comunali chiamate a verificare le chiusure una lettera firmata dai suoi legali, nella quale avverte che in caso di sanzioni la catena dei supermercati è pronta a chiedere i danni alle amministrazioni. Dall'altra parte, noi ieri di Piazza abbiamo parlato con Sergio Bolsonello, che è il vicepresidente del Friuli, assessore alle attività produttive, e lui ci ha detto: guardate che per Trieste non c'è nessun problema, glielo faccio sentire. Il comune di Trieste faccia domanda per farsi riconoscere comune turistico e noi immediatamente, visto che i numeri li hanno per essere riconosciuti come comune turistico, glielo riconosciamo. È una polemica veramente senza senso. Ha capito cosa dice Bolsonello? Allora, ma Di certo, Piazza. Ma certo. Ma lo potremo anche fare, questo lo faremo. L'unica cosa vera che va detta agli ascoltatori: cari signori, siamo una regione a statuto speciale, facciamo una legge che viene impugnata dal governo, che è dello stesso colore, perché la Serracchiani è vicepresidente del Partito Democratico. Eh sì, perché la legge è stata impugnata, no, mi scusi, io non l'ho detto ieri agli ascoltatori, la legge è stata impugnata dal governo. Per cui una regione italiana fa una legge che viene impugnata dal governo e la regione non torna indietro. Ma quello che è drammatico è la grande distribuzione, perdendo degli incassi, chiederà una riduzione del personale. In questo momento drammatico dell'economia del paese andremo a perdere 300-400 posti di lavoro. Ma secondo voi è possibile che in un paese normale succedano queste cose? Con la Slovenia vicino, che è aperta 24 ore al giorno, perché sapete che i paesi dell'est hanno una legislazione molto morbida, e noi ci permettiamo di fare queste cose. Siamo fuori di testa. Certo, perché hai la Slovenia ad un passo, transiti al confine, vai a fare acquisti e poi ritorni. Le zone di confine, dunque, voi sapete che tutti vanno a comprare sigarette fuori perché risparmiano 15 euro a stecca. Tutti vanno a fare il pieno di benzina fuori perché risparmiano 20 euro. 20 più 15 sono già 35. Per cui abbiamo questo dramma e ci permettiamo di fare queste stupidaggini. Cioè, io non ho parole, questa è la realtà. Dopo che io posso fare città turistica, tutto quello che volete, ma allora dovevate dirlo prima, perché quando avete fatto questa legge io mi presentavo, facevo città turistica e non avevo problemi. Ma ripeto, soprattutto penso da imprenditore quale sono nel ramo della grande distribuzione, oltretutto. Eh sì, perché tra l'altro lei è nel settore, no? Esatto, volevo dirle, ma sicuramente l'imprenditore chiederanno una riduzione del personale. Ma le sembra possibile che un momento così drammatico della vita economica del paese possiamo permetterci di qualche, qualche ascoltatore ci dice di piazza, vabbè, è un po' esagerato, dice no, non è che taglia il personale per quei quattro giorni di chiusura, ossia... No, mi scusi un attimo, una catena a fine anno rimette 5-6 milioni di euro, mi scusi un attimo, uno che ha 300 punti vendita, ma cosa stiamo dicendo? La Despar, di cui io faccio parte, ha centinaia di punti vendita, moltiplichi per tot migliaia di euro al giorno e uno si rende conto che diventano milioni a fine anno. Milioni a fine anno con una, uno dice riduco di 50 persone. Questa è la verità. Moltiplichi per tutta la grande distribuzione del Friuli Venezia Giulia 1.200.000 abitanti e rischiamo di perdere 300-400-500 posti di lavoro. È una follia in questo momento economico, dico. Ma io aprirei 24 ore al giorno oggi, tutelando naturalmente sempre il personale, che quella è la cosa, ma tanto ci pensano bene i sindacati, tutte le leggi dello Stato. Ma lei cosa fa? Lei cosa fa? Apre di piazza, sì. No, io per fortuna ho fatto una cosa, li ho affittati alla Despar perché non ho il problema. Rimane anche per evitare un conflitto di interessi, immagino. Esatto. Per mia fortuna, dopo 20 anni che faccio sindaco, ho ancora la fedina penale pulita, se mi consente. Allora volevo dirle, il problema è che non si doveva in questo momento economico, questo dobbiamo fare dire. Una legge di questo genere, esatto, senso. Che poi impugnata dallo stesso governo. Allora, questa veramente è una barzelletta. Allora Di Piazza, la ringrazio, grazie a Roberto Di Piazza, sindaco di Trieste, per essere stato con noi. Adesso una pausa, ci ritroviamo per la borsa e poi una storia più leggera per chiudere, visto che è venerdì. Parleremo con col sindaco di Castel Gandolfo, perché da oggi il Papa anche ufficialmente non va più a Castel Gandolfo d'estate, e quindi c'è un problema turistico anche per loro, perché ne attirava tanti. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: c'è un'offensiva dell'ISIS a Kirkuk in Iraq, ci sono almeno 17 morti, secondo fonti curde ci sarebbero jihadisti asserragliati in una scuola e altri avrebbero preso in ostaggio delle persone all'interno di una moschea. Renzi contro la decisione dell'UNESCO su Gerusalemme, voto allucinante, l'Italia ha sbagliato ad astenersi. Lo sciopero, scarsi gli effetti a Milano, mentre Roma è nel caos con le metropolitane ferme, domani manifestazione a San Giovanni. Gli ispettori del Ministero all'ospedale di Catania per il caso della donna morta dopo l'aborto. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Già si sapeva e ve l'avevamo raccontato, Castel Gandolfo smette di essere la residenza estiva del Papa, già lo era nei fatti, da questo fine settimana saranno visitabili anche gli appartamenti papali. Silvia Monachesi, sindaco di Castel Gandolfo, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, allora, buongiorno a voi. Siete un po' preoccupati da questa cosa, perché insomma tirava un bel flusso turistico il Papa d'estate là? Allora, è una medaglia che ha due facce. Diciamo che l'aspetto turistico viene comunque mantenuto dalla possibilità di visitare sia i giardini che il Palazzo Papale, sì. E quindi sarà ulteriormente incrementato adesso con la visita dell'appartamento privato, che immagino abbia molto appeal sul, sì, visitatore. Sì, certo, no, non è un'udienza del Papa, diciamo, dal punto di vista, esatto, di afflusso. E questo, ecco. E questo è l'aspetto, è l'altro risvolto della medaglia. Ecco, però dobbiamo guardare avanti e vedere il lato positivo. Ecco. Ci siete rimasti un po' male? Siamo dispiaciuti per il timore che questa scelta diventi definitiva. Perché comunque la comunità di Castel Gandolfo ha sempre avuto una relazione molto proprio stretta, al di là dell'aspetto economico, ma proprio una relazione di quotidianità con i papi. E con la loro, cioè, ognuno di noi specifichiamo, ha un ricordo. Mi scusi, Monachesi, specifichiamolo, da 600 anni, mica dall'altro ieri. Da 400, dal 1600. Da 400, scusi, sì, dal 1600. No, prego, però comunque tantissimi. Poi è vero, a volte dei papi non sono venuti, su 33 credo che 15 non siano venuti, però nell'ultimo secolo sono stati tutti molto presenti. nel tempo della guerra, Pio XII ha aperto proprio il palazzo e i giardini a tutte le persone in fuga dalla guerra, tant'è che nel suo appartamento papale, nella sua stanza da letto, sono nati una cinquantina di bambini. Quindi come possiamo noi dimenticare queste cose? Insomma, fa parte proprio della nostra storia, però andiamo avanti. Come l'hanno presa i suoi concittadini? E con questo stesso spirito, io adesso le sto esprimendo proprio questo sentimento. Mi sembra, la sento un po' rassegnata, sì. Per forza, cioè c'è un lato positivo che è dato comunque da un afflusso turistico e dalla possibilità di rendere visibili a tutti i giardini e il palazzo, e questa è una cosa molto positiva. Per noi castellani c'è il dispiacere di interrompere una storia, una tradizione a cui tenevamo più di ogni altra cosa. Ce l'avete con Bergoglio? No, assolutamente non ce l'abbiamo con Bergoglio, siamo dispiaciuti. Ci mancherebbe, anzi gli siamo grati, perché comunque ha deciso di aprire. Se fossero rimaste chiuse, noi non avremmo avuto il turismo che abbiamo oggi. Quindi certo. No, assolutamente, lo voglio sottolineare, siamo grati a Bergoglio perché ha aperto gli appartamenti. Sì. Ci dispiace che Bergoglio non venga, speriamo che comunque possa venirci a trovare comunque. Assolutamente. Senta, lo spero per voi. Da domani è aperto, quindi. Da domani. Io sono appena tornata dall'inaugurazione che c'è stata questa mattina con tutti i giornalisti. Va bene. Avete sentito la rassegnazione e la voce del sindaco di Castel Gandolfo, Silvia Monachesi. Quindi, se siete in zona, insomma, in provincia di Roma, magari andate a visitare gli appartamenti papali e anche i giardini. È un posto bellissimo. Grazie, Silvia Monachesi, sindaco di Castel Gandolfo, per essere stata con noi. Noi chiudiamo qua il traffico. Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.